giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un detenuto su tre in carcere per detenzione o spaccio di droga, enorme il peso sulla giustizia, se ne è parlato a Udine alla presentazione del libro bianco sulle droghe. A Trieste i sindacati della scuola sono in stato di agitazione a difesa delle figure ausiliarie a cui non sarebbero state garantite le ferie. Sequestrati a Trieste 4.500 flaconi di detersivi e detergenti con marchi famosi contraffatti, venivano dalla Turchia ed erano diretti in Germania. Aiutare le famiglie a gestire i figli quando la scuola è chiusa è l'obiettivo del nuovo bando destinato al terzo settore, già online sul sito della regione. Le politiche abitative e l'attrattività del territorio al centro del confronto pubblico organizzato a Gorizia per l'assemblea di metà mandato di Lega Coop Friuli Venezia Giulia. In aumento gli studenti delle terze e quarte superiori che partecipano ai corsi brevi dell'Università di Trieste, quest'anno ne sono stati attivati 17, oggi la presentazione. E presentati a Pordenone gli ultimi due mezzi, uno elettrico e uno a metano liquido, che andranno a costituire la flotta urbana della città. La Friuli Venezia Giulia Orchestra ha ottenuto il voto più alto in Italia nell'annuale valutazione del Ministero della Cultura, valutati qualità del progetto e dei musicisti e direzione artistica. Le 12:31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Lara Zani. A Udine questa mattina è stata presentata la 16ª edizione del libro bianco sulle droghe dal titolo Non mollare, con l'illustrazione della situazione del carcere di Udine tra criticità e mistificazioni. Sentiamo Franco Corleone, che è presidente onorario della società della regione ed ex garante dei detenuti. È il 16° libro bianco che la Società della Ragione e molte altre associazioni ogni anno presentano per testimoniare il peso della legge proibizionista sulle droghe sul carcere. È un numero incredibile: su 62.000 detenuti, 40.000 sono per violazione della legge sulle droghe, detenzione o piccolo spaccio, o classificati come tossicodipendenti. Si dimostra che il carcere è il luogo di detenzione sociale, e se noi non avessimo questo peso, noi non avremmo il sovraffollamento, non avremmo il problema delle strutture, non avremmo il problema del personale. A Udine il peso è rilevante: 170 detenuti con una capienza di 95 persone. Questo crea difficoltà di convivenza in carcere fra la polizia penitenziaria, i detenuti, il caldo che arriva adesso fra luglio e agosto ci fa temere che sia una condizione difficile. Di fronte a questo le associazioni sono in prima fila come Icaro per garantire attività anche d'estate. L'avvertenza Flex, la Corte d'Appello di Trieste, conferma le richieste di lavoratrici e lavoratori andando a sentenze e riafferma che Flex è il vero datore di lavoro e ribadisce che i rapporti di lavoro stanno in capo non alle agenzie di somministrazione bensì all'utilizzatore, cioè appunto Flex. A darne notizie l'USB, secondo la quale è di vitale importanza la conferma dell'orientamento della Corte di Giustizia Europea. Per USB si apre la strada per smantellare un elemento che sanciva per legge il precariato stabile, ossimoro che ha impedito a migliaia di lavoratrici e lavoratori di potersi garantire un futuro stabile e un rapporto di lavoro fondato sulla dignità e non sul ricatto del precariato. USB cita lavoratori somministrati con anzianità fino a 13 anni, lavoratrici somministrate che hanno deciso di diventare madri mai più richiamate in servizio, busta paga da somministrato che non fa garanzia in banca per un prestito o un mutuo. USB si augura che la sentenza faccia riflettere chi ha fatto della flessibilità, cioè del precariato, il leitmotiv della propria azione imprenditoriale e chi accompagna sindacalmente le aziende in meccanismi sempre più intensi di sfruttamento e ricattabilità. Mentre il Comune di Trieste presenta una nuova iniziativa che riguarda i ricreatori, i sindacati della scuola sono in stato di agitazione a difesa delle figure ausiliarie a cui non sarebbero state garantite le ferie. In prima linea in caso di incendio sul territorio, ma impegnati anche a fare informazione e prevenzione. Divulgare la cultura della sicurezza tra i più giovani è l'obiettivo dell'iniziativa promossa dal Comune di Trieste e dal Gruppo Comunale di Protezione Civile in tutti i ricreatori della città, con attività formative, pratiche e teoriche. Siamo con l'assessore all'educazione Maurizio De Blasio. Perché avete scelto di coinvolgere la Protezione Civile, che appunto è impegnata sul territorio ma è impegnata anche nell'informazione? Nei ricreatori da sempre si cresce giocando e giocando si impara. E questa è un'occasione, un'opportunità che noi forniamo per consentire ai bambini e ai ragazzi di conoscere il Gruppo Comunale di Protezione Civile e la Protezione Civile in generale nella sua importanza di tutela del territorio e della città. Quasi in contemporanea a questa conferenza stampa, anche i sindacati hanno chiamato i giornalisti per denunciare una situazione di sofferenza nei servizi educativi del comune. Sono in stato di agitazione. Tra le problematiche lamentate dai sindacati, la mancata concessione delle ferie al personale ausiliario. Dicono per far fare le pulizie al nido di Roiano, che come sappiamo è ancora chiuso. È vero? Allora, l'asilo nido di Roiano è ancora chiuso nella sua funzione d'asilo, ma è una struttura che ormai appartiene al comune e quindi richiede delle attenzioni di manutenzione e di gestione, tra le quali c'è anche appunto la pulizia. Contemporaneamente mi sento di dire che non vi è alcuna intenzione di negare le ferie al personale, semmai è quello di garantire i servizi e quindi di pianificare le ferie in modo che tutto funzioni. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. È online sul sito della Regione il nuovo bando per la concessione di contributi agli enti del terzo settore finalizzati alla realizzazione di servizi di sostegno alla genitorialità e di promozione di reti familiari. È previsto un contributo massimo di 5.000 euro per ciascun progetto. A darne notizie l'assessore Alessia Rosolen, come spiegato dall'esponente dell'esecutivo, si tratta del terzo di tre bandi promossi quest'anno dall'amministrazione regionale per sostenere iniziative ideate e gestite dagli enti del terzo settore. Abbiamo individuato, spiega Rosolen, tre linee di intervento distinte. La prima dotata di 700.000 euro per servizi di doposcuola, la seconda con una dotazione di 250.000 euro per i centri estivi diurni, la cui graduatoria è in fase di pubblicazione, e infine questo terzo avviso da 50.000 euro dedicato a progetti a supporto della genitorialità. Complessivamente sono stati stanziati 1 milione di euro. Con queste misure la Regione intende dare continuità al lavoro svolto negli anni precedenti, sostenendo in particolare le attività del terzo settore che favoriscono la conciliazione tra vita e lavoro nei periodi di sospensione delle attività scolastiche. La domanda va inoltrata dalle 9 del 14 luglio fino alle 12 del 15 settembre tramite il sistema istanze online disponibile sul sito della Regione. Ogni ente potrà presentare una sola domanda. Le attività progettuali dovranno svolgersi da settembre 2025 a settembre 2026 sul territorio regionale, essere gratuite e prevedere il coinvolgimento di almeno un soggetto partner tra scuole, centri di aggregazione giovanile, centri per la famiglia, comuni, distretti o ambiti. Via libera dal Consiglio delle Autonomie Locali alla richiesta della Regione di accedere al fondo statale per il finanziamento dei centri per la famiglia, già attivati in via sperimentale nel Friuli Venezia Giulia. Si tratta di sportelli e punti di riferimento informativo. Tra le loro finalità anche la tutela dei minori rispetto alle esposizioni mediatiche, come i contenuti violenti e pornografici, la prevenzione rispetto all'assunzione di sostanze psicotrope e la promozione dell'invecchiamento attivo. Gli enti gestori dei servizi sociali dei comuni di Carnia, Livenza Cansiglio Cavallo, Noncello, Sile, Medune e Triestino, dove i centri sono operativi, vedranno ripartiti circa 630.000 euro, secondo criteri proporzionali misti a una quota fissa. Il fondo statale fa riferimento all'annualità 2024, mentre per il 2025 la quota parte destinata al Friuli Venezia Giulia verrà maggiorata a 700.000 euro, permettendo così di valutare l'attivazione di nuovi centri sperimentali. Assemblea di metà mandato per Lega Coop Friuli Venezia Giulia, con un momento di confronto pubblico incentrato sulle politiche abitative. Mutualità, partecipazione e prossimità sono le parole del mondo della cooperazione in regione nel 2025, celebrato dall'ONU come l'anno internazionale delle cooperative. In Friuli Venezia Giulia sono 160 per circa 20.000 lavoratori e dopo un ventennio con il numero di associati in calo, Lega, Coppa e FQC può festeggiare un trend in crescita. 8 nuove adesioni nel 2024, 3 nei primi 3 mesi di quest'anno, cresceranno di altre 5 nei prossimi 6 mesi. Il sistema sta bene, abbiamo 20.000 tra soci, addetti e fatturato che si avvicina ai 2 miliardi, ha detto la presidente regionale Michela Fogrig. I settori trainanti, servizio, consumo, sociale e cultura hanno continuato a crescere, confermando l'andamento anticiclico della cooperazione, la sua capacità di investimento e innovazione nei territori nei quali opera. Tutto questo nonostante l'aumento dei costi, la carenza del personale qualificato e la pressione ridotta sui margini. Fogrig, nella relazione di metà mandato, ha concluso che le cooperative del Friuli Venezia Giulia vogliono essere protagoniste del cambiamento e non semplici spettatori del declino. Le sfide, oltre un'occupazione definita più equa e più giusta, sono la realizzazione dei progetti per ripopolare le aree interne. Gorizia, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Funzionari delle dogane e guardia di finanza hanno sequestrato 4.500 flaconi contenenti detersivo e detergenti con marchi riferiti a noti brand del settore contraffatti. Da un controllo doganale è risultato che in un tir proveniente dal porto di Gemlik in Turchia e documentalmente destinato alla Germania erano trasportati numerosi colli costituiti da diverse tipologie di detersivi e di detergenti promiscuamente imballati. L'anomala modalità ha fatto ipotizzare la contraffazione, confermata poi dal risultato delle perizie eseguite dalle aziende titolari dei vari loghi, che opportunamente interessate hanno classificato tutti i prodotti come non autentici. I carabinieri hanno denunciato per furto aggravato una 39enne di Trieste che avrebbe rubato del denaro dall'interno degli spogliatoi di una scuola di danza della città. L'indagine ha preso avvio dalla denuncia del titolare della scuola di danza dopo la segnalazione di alcuni allievi che lamentavano la mancanza dei loro averi dagli armadietti. Grazie alle immediate attività investigative dei militari, che hanno incluso le testimonianze e la visione di alcuni fotogrammi, è stato possibile risalire in breve tempo all'identità della presunta autrice del furto. L'ARPA ha diramato una comunicazione tecnica per l'allertamento dell'emergenza caldo, che contiene il quadro della situazione in regione espresso con l'indice di TOM, che esprime in un singolo valore l'effetto di disagio sul corpo umano provocato dalla combinazione di temperatura e umidità. Oggi siamo oltre il livello 3 in una scala di 4, dunque forte disagio sulla costa occidentale, dunque Grado e Lignano, e nella media e bassa pianura. Oltre il livello 2 per la collina e l'alta pianura e per la costa orientale e la città di Trieste. Lo stesso quadro è previsto per domani. E vediamo appunto il tempo. Cielo sereno su pianura e costa, da nuvoloso a variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 29 gradi e mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi. A Gorizia 33 gradi, a Udine 31,5, a Pordenone 31. A Tolmezzo 28 gradi e mezzo, a Tarvisio 27 gradi, a Forni di Sopra 26. A Piancavallo 24, a Sappada 22 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolano e sul Monte Lussari 19 gradi e mezzo, a Lignano 33 gradi, a Grado 29, mare in entrambe le località 28 gradi. Dal pomeriggio queste le previsioni: sui monti variabilità con la possibilità di qualche rovescio e qualche temporale, più probabili verso il cadore. Anche in pianura non si esclude qualche temporale verso sera, ma con maggiore probabilità nella notte verso martedì. Oggi la presentazione dei corsi brevi organizzati dall'Università di Trieste per gli studenti della terza e quarta superiore. La frequentazione delle lezioni varrà come credito in vista dell'esame di maturità. 11ª edizione, 17 i corsi, sempre più numerosi gli studenti delle classi terze e quarte delle superiori che partecipano ai moduli formativi estivi. 700 quest'anno. A raccontare la propria esperienza allo studente del secondo anno di matematica, Andrés Cocever. Ho frequentato i moduli nel 2022 e sono stati un'ottima opportunità per ricevere un'anteprima di un mondo che inizialmente pensavo mi interessasse particolarmente e che mi interessa ancora, ossia quello dell'intelligenza artificiale, però mi sono poi reso conto, frequentando il modulo, di essere più interessato alla parte teorica, formale, e quindi ho deciso poi di iscrivermi a matematica. Un'esperienza per schiarirsi le idee sulla scelta del percorso universitario da intraprendere. 2 le sessioni, luglio e settembre. Il Collegio di Merito Luciano Fonda accoglie alcuni corsi. I partecipanti arrivano anche da altre regioni e dall'estero. La scelta dei moduli è vasta: proiezioni di economia globale, progettazione di spazi a misura d'uomo, salute mentale, il calcolo matriciale. Professor Lucio Torelli, delegato all'orientamento. Sono moduli che nascono da colleghi e colleghe dell'Ateneo che non solo presentano attività di didattica classica ma anche le attività di ricerca che fanno in vari campi, e quindi sono moduli formativi che vogliono offrire oggi ai ragazzi non solo materie classiche ma anche quello che l'università sta facendo nel tentativo di voler essere innovativa e vicina ai tempi moderni. La partecipazione ai moduli è riconosciuta dalle scuole di provenienza come attività di percorso per le competenze trasversali e l'orientamento. Investire sul proprio futuro ripagherà sempre, le parole del magnifico rettore Roberto Di Lenarda. Vogliono capire cosa fare da grandi e come università siamo molto contenti di dargli questa opportunità. Sono anni in cui l'attrattività della nostra università sta crescendo molto, abbiamo sempre più studenti, sempre più iscritti, e quindi è un bel segnale anche per il futuro della nostra città e della nostra regione. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. C'è anche l'Università di Trieste tra i firmatari di uno studio internazionale appena pubblicato dalla rivista Science Advances sul movimento della corrente circumpolare profonda che è riuscita a risalire il margine nel mare di Ross, favorendo il ritiro della calotta di ghiaccio. Uno studio che getta le basi per prevedere le possibili reazioni dell'ecosistema antartico in risposta al riscaldamento globale. L'invecchiamento sano influenza le capacità di produzione del discorso e le capacità cognitive ad esso collegate, come velocità di eloquio, abilità lessicali, grammaticali e fonologiche. Lo dimostra per la prima volta una ricerca dell'Università di Udine basata su un campione di 256 adulti sani tra i 20 e i 92 anni. Lo studio ha osservato che il declino di memoria di lavoro, attenzione e controllo inibitorio è fortemente associato a difficoltà a livello discorsivo. L'età di 75 anni è emersa come una soglia critica, segnando un punto di svolta in diversi ambiti comunicativi e cognitivi. Il lavoro è stato pubblicato dalla rivista scientifica internazionale Discourse Processes. Lo studio rientra nei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La nostra ricerca, spiega il responsabile scientifico Andrea Marini, professore di psicologia generale nell'Ateneo Friulano, fornisce per la prima volta evidenze di andamenti lineari e non lineari legati all'età della produzione discorsiva. Contribuisce in particolare alla comprensione dell'interazione tra linguaggio e cognizione nell'invecchiamento sano, offrendo una base per la ricerca futura e per applicazioni pratiche in ambito clinico. Presentati a Pordenone gli ultimi due mezzi, uno elettrico e uno a metano liquido, che andranno a costituire la flotta urbana della città. I due nuovi mezzi ecologici di ATAP del servizio urbano presentati questa mattina, uno elettrico, l'altro a metano liquido, vanno a sommarsi a una flotta che si sta rinnovando nella direzione della sostenibilità. Salgono infatti a 16 gli autobus a gas naturale liquefatto e a 2 quelli elettrici. Questi ultimi saranno aumentati di altre 5 unità il prossimo anno, così che nel 2026 23 dei 28 mezzi urbani non saranno più a gasolio. Gli ultimi due arrivati sono mezzi di ultima generazione, con tornelli all'ingresso per accedere solo con titolo di viaggio, telecamere al posto degli specchietti retrovisori, posti per i passeggini e rampe per i disabili. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone. Una scelta che guarda la sostenibilità ambientale, lo fa concretamente perché mette a terra letteralmente due mezzi che guardano al futuro, l'uno a gas, l'altro elettrico, ed è anche una partita di territorio perché la facciamo insieme ai sindaci Contermini, alla nostra azienda ATAP e alla regione. Sono oltre 8 milioni i fondi intercettati per l'acquisto dei nuovi mezzi. Il costo è di quasi 500.000 euro per i bus elettrici, circa la metà per quelli a gas. ATAP sta ultimando i lavori per l'operatività dell'impianto metano liquido e predisponendo l'infrastruttura per il fotovoltaico. Narciso Gaspardo, presidente ATAP. Il pianto è ultimato, stiamo solo procedendo alle fasi procedurali e amministrative per poterlo aprire. L'elettrico, da qui al prossimo anno faremo tutta l'infrastrutturazione nel deposito di via Prasecco del fotovoltaico. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Lignano Sabbia d'Oro ieri sera la data zero del tour di Ultimo, mai così tante presenze negli ultimi 10 anni per un concerto in Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta dal vivo in uno stadio il brano Bella Davvero, pubblicato nei mesi scorsi, e poi oltre 2 ore di musiche ed emozioni senza sosta, con una trentina di canzoni che spaziano attraverso l'intero repertorio dell'artista, da Il bambino che contava le stelle fino a Sogni appesi, alternando il medley con la band al momento piano e voce. Da un palco di 65 metri per 24 di altezza, che riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo sin dagli esordi, Ultimo ha dato il via da Lignano Sabbiadoro a Ultimo Stadi 2025, La favola continua. La tournée estiva che fino al 23 luglio lo vedrà salire nuovamente sui palchi dei più grandi stadi del paese per 9 appuntamenti tutti sold out da mesi. A fare da sfondo una superficie LED da oltre 900 metri quadrati con oltre 600 corpi illuminanti. Per lo Stadio Teghile è stata la terza di 3 date zero per altrettanti artisti italiani nell'ultimo mese, dopo Cesare Cremonini l'8 giugno e Marco Mengoni il 21, questa volta anche con un record. 28.000 spettatori, mai così tanti negli ultimi 10 anni in una location del Friuli Venezia Giulia, ed era stato lo stesso Ultimo esattamente 2 anni fa a far segnare il record precedente di oltre 27.000 spettatori. La Friuli Venezia Giulia Orchestra ha ottenuto il voto più alto in Italia, 20 punti, nell'annuale valutazione che il Ministero della Cultura, attraverso un'apposita commissione, redige sulla base di diversi parametri: qualità del progetto, direzione artistica, qualità dei musicisti. Siamo entusiasti e orgogliosi di questo risultato, commentano il presidente Paolo Petizzioli e il direttore artistico Claudio Mansutti. Le due voci con i più alti voti sono la qualità artistica e innovativa del progetto e la qualità del personale artistico, con 6 punti ciascuno. Significa che il Ministero riconosce la grande crescita e il valore della sinfonica regionale all'interno del panorama musicale nazionale. Questo punteggio riguarda il primo anno di un triennio alla fine del quale FVG Orchestra potrebbe diventare, da orchestra territoriale a istituzione concertistico-orchestrale riconosciuta dal Ministero della Cultura, con grande prestigio per tutta la regione. Prestigiosa affermazione del Corisontino Free Voices di Capriva del Friuli, diretto da Manuela Marussi, che si è aggiudicato il Grand Prix al concorso internazionale Chorus Inside, svoltosi a Lloret de Mar, Barcellona, in Spagna. È la prima volta da 30 anni che un coro italiano vince il primo premio nella severissima competizione, che anche questa volta ha visto in gara le migliori espressioni della coralità europea. Il concorso ha visto partecipare gruppi polifonici provenienti da Italia, Brasile, Romania, Polonia e Ucraina. I Free Voices hanno gareggiato sia nella categoria del canto popolare, sia in quella del canto gospel, pop, modern e jazz. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Lara Zani. In regia, per la parte tecnica, Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito, un buon proseguimento d'ascolto e ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.